492. Anguille alla fiorentina. Prendete anguille di mezzana grandezza, sbuzzatele e spellatele praticando una incisione circolare sotto alla testa che terrete ferma con un canovaccio, onde non isgusci per l'abbondante mucosità di questo pesce, e tirate giù la pelle che verrà via tutta intera. Allora tagliatela a pezzi, lunghi, un dito poco meno, che condirete con olio, sale e pepe, lasciandoli stare per un'ora o due. Per cuocerle, servitevi di una teglia o di un tegame di ferro, copritene il fondo con un velo d'olio, due spicchi d'aglio interi e foglie di salvia. Fate soffriggere per un poco e, presi i pezzi dell'anguilla uno alla volta, involgeteli nel pan grattato e disponeteli nel tegame uno accanto all'altro, versando lor sopra il resto del condimento. Cuoceteli fra due fuochi e, quando avranno preso colore, versate nel tegame un gocciolo d'acqua. La carne di questo pesce, assai delicato e gustoso, riesce alquanto indigesta per la sua soverchia oleosità.